questa branca qui è sempre l'intelligenza artificiale. Diciamo, ci dovremmo avvicinare in quella che si chiama intelligenza artificiale forte, cioè effettivamente il computer che sia in grado di ragionare come un umano. Sostanzialmente di ragionare come un umano. Ecco, che effetti ci dobbiamo aspettare se questi sistemi di traduzione si affineranno e in generale diventerà possibile interagire in linguaggio naturale col computer? Perché poi, diciamo, siamo in quell'ambito lì, no? Sicuramente, diciamo, ci aspettano due cose. La prima è che sul web oggi noi accediamo solo a una piccola frazione del web, quella nella nostra lingua. Quindi traducendo, facendo un traduttore ideale, potremo accedere a tutto il web. La seconda è che nell'ambito della traduzione professionale, sì, noi oggi utilizziamo la traduzione automatica per aiutare il traduttore, cioè lui riceve un suggerimento e lo migliora. Bene, oggi il traduttore corregge circa in italiano e inglese il 25-23% sì, della frase. Quando correggerà solo l'1%, noi ci potremo permettere di tradurre molto, molto più contenuto e quindi comunicare molto di più. Anche perché le traduzioni sono appunto una cosa abbastanza costosa. Ecco, aggiungiamo forse che quando ci sarà questo step e quindi sarà possibile comunicare in linguaggio naturale con i computer, sarà anche caduta l'ultima barriera tecnologica fra noi e le macchine, che non è una cosa da poco. Beh, togliamo di mezzo forse anche la tastiera, no? Ci parliamo, certo, di... Certo, e ogni forma di digital divide, per esempio legata, non so, all'età, mi sembra una roba molto significativa. Grazie Trombetti. Grazie, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.